E ben ritrovati come sempre ad una nuova puntata di Rock Legends, al microfono come sempre il vostro Jean-Luc, altra puntata con ospiti in studio, stasera con noi alcuni membri di una formazione di Cesena che ci farà ascoltare il loro nuovo disco. A voi le presentazioni. Ciao a tutti, noi siamo Ale e Mino dei Severa Union e siamo qui apposta per presentarvi il nostro nuovo disco Awake from the Game. Una puntata che inizia con una prima parte dedicata ad alcune grandi band hard and heavy degli anni 70, dal tipico dark sound e come prima canzone abbiamo ascoltato Urban Guerrilla degli Hawkwind dal disco Do Re Mi Fa Sol La Ti Do del 1972 ed originariamente non presente nella versione 33 giri. Band antesignana di tantissimi generi che guardava al suono del futuro tanto da risultare ancora attuale, che ne pensate? Beh, abbiamo iniziato con una bella carica rock and roll. Noi veniamo un po' dopo, ma essendo tutti di una ventina d'anni, ma comunque ritornare a ritroso nella storia del rock con band del genere ci fa solo che piacere, comunque incrementa il nostro, la nostra influenza cultura, musicale, insomma, ecco. Fame di musica. Esatto. La storia dei Severa Union inizia nel 2005, come vi siete formati, da cosa ha scaturito questo nome? Insomma, devi immaginare che i Severa Union nascono da quattro ragazzi con la passione per la musica che hanno tanta voglia di suonare, di spaccare tutto, quindi nel 2005 abbiamo iniziato a suonare insieme con venendo un pochino tutti da contesti musicali un po' diversi, insomma, quindi tanti generi, tanti sound che poi, insomma, abbiamo cercato di confluire e fare per far diventare i Severa Union, insomma, qualcosa di nuovo, qualcosa di innovativo. Da qui, infatti, diciamo, da un po' un motto, se vogliamo, dei Severa Union, che è quello un pochino più lungo, del Several Influences in a Hard Rock Union, cioè tante influenze poi in un unico stile, insomma. E da qui, insomma, il nome. Proseguiamo il nostro viaggio nel rock degli anni 70 con i Blue Oyster Cult, band di New York dal folk ensemble, registrano il loro primo omonimo disco di esordio nel 1972 che si distingue per i brani lunghi e per le tematiche fantascientifiche ed enigmatiche. Da questo album la canzone Stairway to the Stars. Drive mine. Tra le tante formazioni di culto del rock americano meno conosciute e meritevoli di grande riscoperta, che ne dite? Beh, che brani come questo o come miliardi di altri avrebbero meritato ben altro successo. Beh. Alessandro? Ti scuoti la testa? No, assolutamente, anzi, io sono completamente d'accordo. Diciamo che ce ne sono, io conoscevo altri pezzi, anzi, ne abbiamo chiacchierato certo. Giusto prima, insomma, sì. Ne conoscevo altri di pezzi, ma direi che questo è assolutamente al pari, anzi. Ce ne siamo, insomma. Abbiamo iniziato con una gran bel rock and roll, insomma. Sicuramente. Questo è già il secondo. Vostre esibizioni. So che in questi anni avete avuto modo di suonare anche all'estero, in altri palchi, per cui vi chiedo come sono state queste esperienze e come il pubblico ha reagito ai live. Beh, diciamo che i Several senza palco non ci sono, insomma, non esistono. I Several sono una realtà che si concretizza poi effettivamente con il rapporto con la gente, con il rapporto con il pubblico. Noi speriamo di essere coinvolgenti, speriamo di dare carica, di infondere quelle che è la nostra musica, le nostre emozioni nelle persone. E fortunatamente abbiamo avuto la possibilità in Italia di calcare dei bei palchi, ma ti dirò che la vera esperienza è stata quella all'estero, quella nel nostro tour in Inghilterra. Chissà perché. Nel 2009, perché ti assicuro che fuori dall'Italia, lo dicono tutti, mi tocca dirlo anche a me stavolta, fuori dall'Italia è un po' un'altra questione, insomma, un po' è un test, sai, della band e della... Suona in inglese, da loro. In inglese, esatto, poi sai, è difficile, da cantante, non è dura. Però, no, poi proprio, sai, il rapporto che hai con la gente, il fatto che ti considerino davvero musicista, capito? Non un hobbista che, va, mentalità. Fuori, che so, va fuori a lo suonare. Lo so. E quello ti assicuro che quando hai 20 anni e sei fuori e ti considerano musicista è figo. È una grande soddisfazione. Assolutamente. Concludiamo questa prima parte con i Black Sabbath. Nel 1972 esce Black Sabbath Volume 4, altro lavoro dove la band di Birmingham continua la sua evoluzione musicale ed inizia a sperimentare anche loro influenze progressive. La canzone che ho scelto si chiama Super Now. (Sussurra)